Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è una buona notizia stasera per le città del futuro e arriva però, pensate un po', da Marte. Da tempo infatti ci si interroga sulle origini del metano presente nell'atmosfera del pianeta rosso. Ma come spesso accade in campo scientifico, le possibili ricadute di una scoperta vanno ben oltre la domanda che ci si era posti inizialmente. Così una ricerca classificabile decisamente come di base potrebbe aprire scenari applicativi di grande interesse per il futuro delle città e di tutti noi. Ebbene, passiamo all'ospite di stasera, che è il geologo dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Giuseppe Etiope, che tra l'altro è già autore di numerosi studi sul metano. A lui si devono i dati sulle emissioni geologiche globali di metano, che ricordiamolo è un potentissimo gas serra, e anche la scoperta del metano pesante. Buonasera Etiope. Buonasera. Dicevamo, la domanda che vi siete fatti riguardava Marte, voi però per cercare risposte siete andati in Turchia. Ecco, iniziamo da questo singolare accostamento. Che cos'è che avete scoperto in Turchia? In Turchia, e più precisamente nel sud della Turchia, nel Golfo di Antalya, esiste una manifestazione superficiale di gas che conoscevamo da tempo. Quello che abbiamo scoperto in un luogo che si chiama Chimera. Esattamente, Chimera è un sito archeologico anche tra l'altro molto bello da vedere, perché ci sono una serie di fiamme, quindi di fuochi naturali che escono naturalmente dal terreno. Questa emissione di gas naturale è attiva da migliaia di anni, è stata citata già da Plinio il Vecchio. 2000 anni non sono pochi, perché abbiamo misurato che questa emissione, il flusso di gas, quindi la quantità di gas che fuoriesce da queste rocce, è enorme, sono parecchie tonnellate l'anno. Allora il punto è che questo gas è abiogenico, ovvero è un metano diverso dal metano tradizionale che utilizziamo tutti i giorni anche come risorsa energetica, è diverso dal metano che è associato al petrolio. Ecco, che appunto spieghiamo, si chiamano infatti questi combustibili fossili perché sono organismi, per lo più piante, che si sono fossilizzati. Questo metano di cui parliamo ha un'origine completamente diversa. Sì, la sua origine non è affatto legata alla presenza di organismi, di materiale organico o da batteri, si produce solamente per reazioni chimiche, particolari reazioni chimiche che avvengono nelle rocce, in presenza di idrogeno e anidride carbonica. Quindi questi sono i due ingredienti di cui abbiamo bisogno per formare questo metano. Anidride carbonica, che è abbondante in atmosfera e anche in alcune rocce, idrogeno che arriva dall'acqua, giusto? Arriva anche lui dalle rocce, arriva da una trasformazione di alcuni minerali in rocce particolari in contatto con l'acqua. Questa trasformazione si chiama serpentinizzazione, cioè l'acqua che entra in certe rocce tipo basalti e i minerali si trasformano e producono idrogeno. Quindi abbiamo il carbonio, abbiamo l'idrogeno, ci sono gli ingredienti per fare il metano. Ma questa cosa si sapeva anche prima? Sì, in genere questa, diciamo, produzione, poi mettere insieme idrogeno e anidride carbonica per formare metano è una reazione che avviene ad alte temperature. In laboratorio si sapeva questo. Addirittura i tedeschi usavano questo processo per produrre la benzina durante la Seconda Guerra Mondiale, vero? Esattamente, esatto. Quindi, ma ad alta temperatura. Invece voi avete scoperto che cosa? Sembra che questo gas che esce nel sud della Turchia è un metano sintetico, ma originandosi a basse temperature, probabilmente al di sotto dei 50 gradi. È stato possibile capire questo solo grazie a sofisticate analisi geochimiche, andando a guardare alcuni rapporti di molecolari e isotopici. Insomma, ecco, questo delle analisi molto particolari. Infatti è molto complicato da spiegare. Quello che però è importante è che bassa temperatura vuol dire possibilità di produrre metano a partire da carbonio e idrogeno disponibili, consumando poca energia, e questo apre degli scenari estremamente interessanti. Sì, è interessante perché ai tedeschi in questa operazione, in questo processo chimico, costava molta energia e anche economicamente non era conveniente. E non erano noti neanche adesso, no? Diciamo, processi convenienti per fare questa operazione. Più o meno, sì. In genere questa reazione si fa in laboratorio ad alte temperature, quindi con costi energetici notevoli. Adesso sembra che esista, almeno in natura, un metano che si produce con basso sforzo energetico, cioè in basse temperature, quindi è possibile riprodurre riprodurlo più facilmente in laboratorio. Insomma, si può pensare, bisogna vedere se ci si riesce, ma si può pensare di industrializzare un processo di questo genere, di avere quindi un sistema che è in grado di produrre metano alla bisogna. Sì, qualcosa del genere. Oltre a produrre metano, questo sistema può anche rimuovere la CO2, perché nella reazione di cui stiamo parlando... La CO2 dall'atmosfera? Dall'atmosfera o da un serbatoio, cioè si cattura la CO2, la si mette, la si accumula in un sistema che poi viene utilizzato per far funzionare questa reazione. Quindi insomma due piccioni con una fava, si ha la possibilità di produrre un vettore energetico molto comodo e utile come il metano, sottraendo CO2 all'atmosfera. Che poi naturalmente quando il metano viene bruciato viene rimesso in circolo, ma questa è esattamente la logica per esempio dei biocombustibili. Ecco, senta, però mi faccia capire una cosa, quanto resta ancora da capire su come realmente avviene questa reazione? Dobbiamo capire effettivamente qual è il meccanismo chimico-fisico che è dietro questa reazione, dobbiamo capire proprio qual è la reazione chimica e quali sono tutti gli ingredienti necessari per far funzionare questa reazione, cioè oltre all'anidride carbonica e all'idrogeno noi abbiamo bisogno di altri, diciamo, di eccipienti, per così dire. Un catalizzatore che proprio catalizzi, quindi permetta a questa reazione di avvenire a delle temperature a cui altrimenti normalmente non dovrebbe avvenire. Il termine esatto è proprio catalizzatore, che è in genere un metallo, quindi un minerale o un composto, un ossido metallico, che però deve funzionare a basse temperature. Avete qualche indiziato? Stiamo lavorando su questo e speriamo di ottenere dei buoni risultati in futuro. Grazie Giuseppe Tiope, buon lavoro allora. Grazie a voi, buona serata. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.